sono delle dimissioni che si possono definire istituzionali, perché Elena Fiorino, alla vicepresidenza della regione Piemonte, insomma fino a ieri, ha in realtà due deleghe molto importanti, l'assessorato al lavoro e quello all'istruzione, e le opposizioni nella mozione che avevano presentato martedì all'ultimo consiglio regionale avevano chiesto le dimissioni da tutte le deleghe, quindi non solo quella della vicepresidenza ma anche quelle poi alla fine molto pratiche, che sono quelle collegate appunto al lavoro e all'istruzione, ma questo insomma non è avvenuto, motivo per cui le opposizioni ieri in serata, quando poi sono state annunciate queste diciamo dimissioni a metà, sono insorte chiamando questa operazione una farsa, perché nel concreto poi non cambia molto il lavoro che Fiorino porterà avanti in regione, perché di fatto farà parte ancora della giunta. Ma come sono maturate, qual è la ragione che ha portato a queste dimissioni? Elena Fiorino in realtà insieme a un altro consigliere di Fratelli d'Italia, Davide Zappalà, sempre in regione Piemonte, erano entrambi soci della società Le Cinque Forchette, quella appunto in cui anche l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro faceva parte, con una quota diversa perché avevano il 5% l'uno, ma comunque questo è stato tenuto da conto dal presidente di regione Alberto Cirio per insomma un po' diminuire la loro colpa in questa storia, ma in realtà poi nella pratica cambia poco. Bisogna dire sicuramente che Elena Fiorino nelle sue dimissioni ha chiesto scusa ai cittadini piemontesi e ha parlato di una grave leggerezza, compiuta però in buona fede. Ora, come sottolineavano anche l'opposizione nell'ultimo consiglio regionale, i due sono usciti dalla società dopo il del Mastro e dopo che Mauro Carroccia, il padre della diciottenne unica intestataria insomma della società, era stato condannato appunto per riciclaggio e per essere persona del clan di Senese, quindi questo è stato visto come qualcosa di ancora più grave, perché non potevano non sapere insomma con chi erano entrati in società. Queste sostanzialmente sono le accuse fatte dall'opposizione, che sicuramente da oggi in poi faranno battaglia su questo, non hanno intenzione di fare passi indietro. A queste dimissioni si è arrivate comunque dopo una settimana di sostanziale silenzio in regione, perché dopo che è scoppiato diciamo lo scandalo legato al sottosegretario in regione non sono state date spiegazioni, né Alberto Cirio ha professato parola e neanche la ex vicepresidente di regione, fino appunto a martedì scorso, quando non si sono presentati in consiglio regionale Cirio perché era a Bruxelles, Fiorino non si è presentata, c'era solo Zappalà, ed è lì appunto che le opposizioni hanno presentato questa mozione di sfiducia sostanzialmente per richiedere le dimissioni, e che quindi tutto sarebbe stato rimandato a martedì. È chiaro che con le dimissioni del Mastro e tutto insomma quello che è successo poi ieri a Roma, era evidente che anche Cirio forse aspettasse un qualche tipo di mossa dal partito centrale, ovviamente da Fratelli d'Italia a Roma, per capire come muoversi. Una volta che sono arrivate le dimissioni da Roma, diciamo che era improbabile che non sarebbe successo nulla in Piemonte. Certo è che sono appunto, come vengono definite alle opposizioni, delle dimissioni un po' formali, poco concrete, ecco. Mi rendo conto che qui siamo nel campo, diciamo così, anche delle speculazioni, però insomma delle interpretazioni anche politiche. Però se il governo, in particolare Fratelli d'Italia, non avesse perso il referendum, tutta questa vicenda a tuo avviso sarebbe venuta alla luce? Nel senso, ci sarebbero state poi le dimissioni oppure no? Penso che appunto, essendo stata diciamo una reazione a catena, le dimissioni in Piemonte è evidente che sono arrivate a catena rispetto a quello che è successo a Roma. Probabilmente se avesse vinto il sì a Roma si sarebbe smosso di meno la situazione, di conseguenza probabilmente anche in regione Piemonte, e anche perché diciamo che la linea di Fratelli d'Italia a Roma, così come in Piemonte, è quella per cui se non arriva avviso di garanzia, se non si è indagati, difficilmente poi si passa a delle diciamo conseguenze politiche. Però è anche importante ricordare che, come hanno fatto insomma anche le opposizioni nell'ultimo consiglio regionale, loro non fanno i magistrati, non chiedono insomma conseguenze giudiziarie, ma fanno i politici, ed è evidente che dal punto di vista di trasparenza politica entrare in società con delle persone collegate a un clan mafioso, nello specifico della Camorra, è una problematica molto politica che non può sicuramente essere ignorata in attesa eventualmente di qualche indagine giudiziaria, cosa che tra l'altro, se mai avvenisse, forse si è insomma intuito che Cirio probabilmente agirebbe in un modo ancora più netto nei confronti di Chiorino ed eventualmente anche di Zappalà, quindi se arrivassero degli avvisi di garanzia. Se appunto come sta succedendo le indagini stanno andando avanti anche per verificare poi effettivamente quali soldi sono stati utilizzati in queste cene eccetera, anche perché nelle ultime ore stanno comunque arrivando nuovi dettagli sulla storia, insomma la diciottenne figlia di Carroccia pare che neghi che insomma queste persone fossero poi uscite dalla società, dice che non aveva dato soldi in contanti a nessuno, ecco bisognerà attendere sicuramente le prossime settimane le indagini.